a tutti quanti. Ben arrivati, potete parlare. Cioè, potete, esatto, potete rispondere. No? Esatto. Non sia, cioè, scusate se vi ho inibita in radio, direi proprio di no. Ok. Stefano, io questa cosa non te l'ho mai detta, quindi faccio coming out con te. Ah, adesso. Wow, grande. Io il mixer che hai davanti lo conosco molto bene. Ah, perché dai, ho fatto parte per anni di Radio Kairos. Hai capito, grande. Per cui tornare in radio è sempre un po' come tornare a casa, e in questa settimana bolognese non potevo farmi mancare anche questo. Anche perché tu, so che non stai a Bologna. No, li ho traditi anni fa. E forse ti direi hai fatto bene. Però. No. L'importante è essere qui nella settimana di Art City, in cui succede di tutto e di più. Tra cui un sacco di roba, tra cui la mostra meravigliosa di Eva Marisaldi che ha inaugurato sabato scorso. Ah, questo cui... posto bellissimo dove si restaurano cose bellissime è il posto più bello in Italia, gli possiamo dare un nome: Laboratorio degli Angeli, in via degli Angeli, 30. Numero? Sì. 32. Non siamo leziosi, è un gioco di parole, perché di fatto è l'oratorio della chiesa di Santa Maria degli Angeli. E quindi è, per quanto banale, un gioco di parole. Certo. Perché chi non è mai venuto pensa che siamo un po' frivoli, no? Invece no, è semplicemente il nome del luogo. Però che grazie. È un luogo meraviglioso, è una chiesa sconsacrata. Sì. Da quanto tempo siete lì? Il laboratorio è lì dal 68. Cavoli. E io ho iniziato a frequentare nata nel 69, anche dopo, caro, esatto. Poco dopo, ma... infatti scusami, perché mentre lo stavo dicendo ho pensato, cavoli, la sto offendendo. No, io sono, diciamo che frequento il luogo dal 93. Ok. Io ho invece rilevato il Laboratorio degli Angeli vero e proprio nel 2005. Ok. Quindi. E invece fate mostre da... 10 anni tondi. Ah, 10 anni tondi, il decimo anno di mostra durante Art City. Cavoli, sì. Adesso mi sento ancora peggio, perché non ero mai venuto fino a che non ha inaugurato Eva. Ho mancato quella di Giorgio Andreotta Calò di pochissimo, ma perché, essendo voi un laboratorio, le mostre durano poco. Sì, 2 settimane, massimo 3. Esatto. In questo caso 3, no? In questo caso 3, avete fatto uno strappo alla regola o avete poco da lavorare? Come sai, Tutte e due. E abbiamo iniziato in realtà con gli eventi di una sola sera, una sola notte. Ah, e piano piano ci siamo allargati, e quest'anno addirittura 3 settimane, quindi un tempo molto breve che però a me sembra ormai immenso rispetto a quelle che sono le origini di questi progetti. Ah, certo. Tu, fra l'altro, se non sbaglio, Leonardo, hai curato altre cose durante Art City, o sbaglio? Allora, come progetti in post istituzionali, questo è appunto l'unico progetto che ho, però ho anche un progetto in galleria, la Galleria Studio G7. Ah, ecco, una infatti. Mostra su Anne e Patrick Poirier, che tornano anche loro a Bologna dopo tanti anni, e quindi sono veramente molto felice anche di questo altro progetto con cui intervengo a Bologna nel periodo di Art City. Grande. Ce la racconti tu la mostra di Eva? Sì, allora i progetti con il laboratorio nascono proprio in un format in cui chiediamo a ogni artista invitato di entrare in questo spazio e di creare un site specific, di mettersi in ascolto del luogo e di creare qualcosa di unico. Eva in particolar modo quest'anno ha avuto una vera e propria fulminazione per questo luogo, inteso non solo come spazio, quindi non solo come ex chiesa con tutte le sue persistenze storiche, architettoniche, ma anche per il lavoro che si svolge all'interno dello spazio. Quindi si è messa in ascolto, in studio del laboratorio e dei restauratori che ogni giorno ci lavorano all'interno. Ha immaginato questo spazio come un grande archivio, transitorio in cui opere e persone creano relazioni più o meno forti, più o meno intense, e ha appunto raccontato questa storia, queste storie che si sono verificate. Guarda caso è il titolo del progetto, e si sviluppa come un grande site specific che ingloba 5 dei grandi tavoli da lavoro dei restauratori, nel quale Eva si è divertita a creare varie connessioni tra le opere in restauro e opere invece della sua produzione precedente, anche opere realizzate proprio per l'occasione. accompagna poi questo intervento site specific anche la presentazione di alcuni altri lavori. Un lavoro nuovo dal titolo Narciso, un'installazione laser del 2022-23, la prima volta che viene presentato, e poi anche due lavori che hanno la loro ragione d'essere nello spazio del laboratorio, anche perché il laboratorio ha presentato delle modalità di allestimento, montaggio delle opere peculiari proprio per la loro natura. Sono dei grandi fogli, delle grandi, poi magari in questo Camilla entrerà più nello specifico, però per dirvi si tratta di delle grandi carte che, per le quali è stato studiato un montaggio a parete che sia anche conservativo, quindi che non vada a distruggere il foglio con chiodini o con altre modalità di attaccaggio a parete distruttive, appunto, scusate il gioco di parole. E anche un lavoro che allestitore. Dicevo, accanto a questo poi presenta anche un lavoro del 2018 di cui adesso, scusate per l'emozione, sono un attimo perso. Beh, non è che ti devi ricordare i titoli di tutti noi, di tutti i lavori. No, ma è un lavoro anche molto bello e molto importante che ho raccontato per tanto tempo, che il lavoro che abbiamo messo in biblioteca. Voi non ci vedete, ma mi lancio a sguardi complici che cadono nel vuoto, perché sono emozionata quando... Che cadono nel vuoto, io ce l'avevo due in tasca. Due non ricordano. Io avevo il librettino in tasca, ma vabbè, so, che impressionante, entrambi della, siamo... Della diretta, in questo momento diciamo il nome dell'intervento di Eva dell'opera non mi viene in mente. Che è un'opera perché molto siamo tutte riposatissime nella settimana di Arte Fiera. Esatto. Anche cara. È già moltissimo che per l'inaugurazione ci ricordiamo come ci chiamiamo. 3.000 pagine. 3.000 pagine, grazie. Grande mia che sei andata 3.000 pagine, è certo che è questo strepitoso rumore. Lavoro installativo che ha fatto all'interno della biblioteca, che appunto consta di una parte sonora, l'intervento sonoro di queste 3.000 pagine che si sentono sfogliate all'unisono e che ricordano quasi un'onda, wow, una resacca, e poi degli autoparlanti realizzati in cartone che sono stati appunto poi restaurati per l'occasione, esatto, proprio nel Laboratorio degli Angeli. Bellissimo. Io ho fatto qualche domanda a Eva sabato, posso farvela sentire? Certo. Perché è interessante la voce di Eva, Molto. Devo dire, e anzi la ringrazio per essere stata così esaustiva, perché conoscendola so che non le piace tanto parlare del suo lavoro, mentre invece sabato era contenta. Eccola qua. Guarda caso siamo alla mostra Guarda Caso di Eva Marisaldi. Eva, perché l'hai chiamata Guarda Caso? L'ho chiamata Guarda Caso. È un titolo bellissimo, devo dire. Sì, perché si è salvato dalla cancellazione degli altri. No, comunque, perché i disegni per la festa nel 2006 e anche questi fogli nuovi che cercano di riprodurre gli scarabocchi dei tavoli. Cioè, inizialmente avevo tenuto l'appunto come perché mi ricordavano i licheni, però in questo caso fanno la funzione da scarabocchi dei tavoli, dei banconi delle scuole, no? Mm-hmm. Quelle di pittura almeno. Sì. Muovendo e contenendo questi robottini che portano in giro il pennarello in questo caso, che dipingevano col pennello in quell'altro, io guardo il caso. Però quello che non sapevo nel 2006 e che ho scoperto dopo è che è incredibile, il nostro sguardo modifica il comportamento perlomeno delle particelle di luce, però okay, estendendo è potente, certo. Cioè, anche nella nostra vita così incerta, secondo me questa è una cosa che ha delle potenzialità, ecco. Il nostro sguardo influenza le cose. Purtroppo sembra che non sia abbastanza potente per modificare quelle veramente problematiche, però insomma, così, guarda caso. E poi perché facendomi mostrare dei materiali, dei cassetti o che erano in transito qua al laboratorio, c'erano delle soluzioni che mi interessavano moltissimo, perché le pratico, i disegni su lucido, il disegno per il pavimento, poi è saltato fuori questa, da un contenitore pieno di piccole xilografie di santi, la Maria Maddalena dei Pazzi, che conoscevo. Io non sono un'esperta di santi perché avevo preso spunto per una performance molti anni fa, perché la Maria Maddalena dei Pazzi aveva le visioni, però quattro consorelle, fine Cinquecento, mm-hmm, avevano organizzato un sistema di registrazione scritta per fermare, documentare in qualche modo quello che lei diceva e anche i suoi gesti, i movimenti nello spazio. E questo mi era sembrato molto interessante per le cose che seguivo all'epoca, e organizzai una performance a partire da dalle parole dell'Estasi, che è il libricino che anche in mostra, che troviamo, insomma, in mostra, sì, insieme a un sacco di altri oggetti. Come li hai scelti? Cioè, come funziona questa scelta di oggetti su questi tavoli? Allora, funziona... Complessa la cella. Ma no, funziona che sono stati scelti dei materiali da questo posto. Sì. Dopodiché ho pensato, dove non avevo la combinazione, guarda caso, subito, spontanea, mm-hmm, di animare i tavoli con piccole cose, insomma, per cui dove c'è il quaderno dell'ingegnere metà 800 che ha disegnato dettagli della ferrovia Bologna-Pistoia o l'O di Milano, che per me sono disegni molto belli e anche dei pensieri sulla scultura, mm-hmm, ho abbinato una piccola scultorina di cartapesta che, va bene, deriva da questa esplorazione dell'intelligenza artificiale, ed era uscita con Solitudine a Zagabria, ma cioè, c'era anche Zagabria attorno, ma mi piaceva dare un retro, cioè provare a fare dei soggetti, delle sculture, degli oggetti, delle sculturine senza pretese, insomma, mm-hmm, così che potessero convivere ad esempio col quaderno dell'ingegnere, una bambina persa fra i disegni della sovrintendenza di Ravenna, disegni che non si sa né, cioè sono degli appunti di pavimenti o anche di geografie sotterranee, però non si sa se esistono ancora. Io non ho fatto delle ricerche approfondite su questo aspetto, mi piacevano in sé, e quindi ho messo questa bambina che sta per la meraviglia, mettiamola così. E invece avevo questo cavallino che è di Gianni Castagnoli, cioè avevo qui, sì, avevano in restauro, okay, e secondo me poteva funzionare con queste pagine dell'Ottocento indiane, che però hanno delle indiane pakistane, ci sono scritte in arabo, e qui sono riusciti a contattare persone che hanno tradotto cosa c'è scritto, sono appunti di legge, della legge islamica della donna, infatti si parla anche della lapidazione, e su questo tavolo non abbiamo messo sassi rivestiti. Questi sassi rivestiti fermano la carta, mm-hmm, fanno funzione, non sono un lavoro a, okay, sé. E invece questi ferri da stiro sono dei fermacarte che loro usano. Un giorno che sono venuta me ne sono trovato uno proprio al piede, e mentre stavo iniziando a lavorare agli oggetti mi sono tornati in mente, e ho anche provato a farne delle copie, ma non ho avuto dei risultati abbastanza soddisfacenti, quindi ci sono solo quei due lì, e fanno funzione, però ricordano un po' anche delle porte medio orientali, insomma, no? Grazie mille. Coxo spaziale! Yeah! E arte, stavamo parlando di arte contemporanea. Mi chiedo, ma uno che ci stava ascoltando, gli verrà voglia di venire a vedere questa mostra? Sì. Sì. Tu cosa ne dici, Mia? Secondo me sì. Cioè, okay. Io no, anzi mi sono pentita di non essere già venuta sabato, ecco, a vederla. Perfetto. No, perché è veramente piena di elementi particolari. mi è venuta una domanda mentre sentivo. Ah sì, certo, perché in effetti un'installazione del genere è un'installazione che succede una volta sola, cioè ovvero gli oggetti che voi state restaurando come laboratorio vengono utilizzati dall'artista come parte di un'installazione che poi però non può diventare permanente, o sbaglio? Beh, senz'altro in questo caso sì, poi non potrebbe esserlo comunque essendo luogo di lavoro, quindi certo, forse anche parte del valore delle nostre, diciamo, iniziative, delle nostre mostre, anche questo, no? Il fatto che venga raccolto in un contenitore che di base fa altro. E noi che non siamo né galleristi né collezionisti, cioè non siamo nel mercato dell'arte, sì, o meglio ci siamo come ma con altre funzioni, certo, probabilmente e poi anche per il luogo bellissimo riusciamo a instaurare un rapporto sempre diverso e particolare con gli artisti, perché appunto ci poniamo per evidenti motivi in maniera diversa e in aggiunta possiamo a volte trovare delle soluzioni per delle problematiche tecniche che magari non sono state risolte in passato, come accennava prima Leonardo. Questo è valso anche per artisti che abbiamo ospitato in passato, non temete, non certo, voglio entrare nel tecnico, voglio però solo dire che per noi è un grosso arricchimento, perché oltre a conoscere e interagire con degli artisti, dato che facciamo molto contemporaneo, può essere a volte anche un'occasione per fare ricerca, certo, e quindi per sperimentare, cosa che o fai con la didattica o puoi fare eventualmente in situazioni di questo genere, quindi sono momenti per me preziosissimi. Certo. E dopo, finita la mostra, cosa succederà delle opere? Torneranno. Una, ho scherzato col proprietario, ho detto guarda te la restauro, ringrazia l'Eva perché era lì da un po'. È la volta buona che te la restituisco. No, perché in effetti anche, è super affascinante questa cosa, cioè come funzionano le priorità del restauro sapendo che avete così tante cose da restaurare. Beh, ci sono tantissimi parametri, ci sono cose, certo, sempre super urgenti, chiaro, spesso e volentieri legate alle mostre e ai galleristi, però mm-hmm, ci sono anche ovviamente dei lavori pubblici che devi per i quali deve rispettare dei tempi, chiaro, noi facciamo anche cantieri, immagino, certamente, certo, che sì, quindi come non tutti lo sapranno, ma alcuni sì, banalmente anche nei cantieri ogni giorno di ritardo ha una percentuale di penale che può, certo, superare anche le centinaia di euro, chiaro, quindi abbiamo un lavoro molto vario e restauratori e operatori molto, molto diversi tra loro. Il criterio è quello di molti altri lavori alla fine, cioè le persone più buone e comprensive forse ricevono la cosa una settimana in più dopo gli altri, certo, però li vogliamo più bene. Chiaro. Poi ci no, sono. Io speravo che finalmente invece si facesse l'incontrario. No, quando si può sì, però la persona no, comprensiva, è karma, è karma. La persona comprensiva. Sai che si aspetta una settimana. La prende sempre in quel posto. No, oddio, un pochino sì, hai ragione. Però confessiamo, diciamolo, carmezziamo questa cosa. Sì, ma appartengo a quella categoria. Anch'io per sì, quello che dico. Ho una in fronte, però sì, però io sono felice così, guarda. Anch'io. Ecco. Ci sta. Sì. E invece Marco Roma a che categoria apparterrà Mia? Sentiamo cosa voi dice. Dovete sapere che c'è un nostro ascoltatore che si chiama Marco Roma che tutti i giorni manda dei vocali e noi Coxo Spaziale non possiamo esimerci dall'ascoltare almeno quello di oggi, per cui sentite qui. Buongiorno, per me l'incredibile sei tu, per me la speranza mia è lei, per me ogni desiderio è il tuo, io lo esaudirò. Da Marco Roma, buongiorno! E buongiorno a te, fantastico. E lui è sempre così. È sempre così, e lui è così. Poi ci sono momenti in cui sta bene, in momenti in cui sta male. Quest'inverno era stato lasciato dalla ragazza, per cui faceva dei vocali un po' tristi, ma adesso vedo che si sta riprendendo molto bene, per cui è grande pieno. Marco, rimani con noi. Pieno. E dunque, Mia, cosa ne dici? Ci ascoltiamo un pezzo? Un pezzo che era andato a Sanremo qualche anno fa. Senti qua. È tutto sterile ed asettico, dentro a questo imballaggio plastico, dove le bombole d'ossigeno sono razionate più del merito. Non basta un bel discorso per ritenere identità. È tutto stabile e meccanico, dentro questo ingranaggio cosmico, che lo ritrovo tra le costole, a controllare ogni mio battito. Non trovo un percorso che mi stia bene addosso, ed in realtà io non lo so se ne ho davvero bisogno. Me l'hai messo solamente tu. Intro, dentro, verso giusto posto. Ma quando ti ricapita di stare zitto e smetterla di prendere opinioni in affitto. Intro, verso, così mi riconosco in me, senza doverlo dimostrare, senza doverlo dimostrare a te. Sono rinchiusa dentro il cellofan, con le mie valvole che scoppiano e la pressione tesa al massimo, comprime il mio pensiero critico. Non serve proprio a niente giocare sotto banco, ma non sei ancora stanco di dover svendere la tua integrità. Intro, dentro, verso giusto posto. Quando ti ricapita di stare zitto e smetterla di prendere opinioni in affitto. Intro, verso, così mi riconosco in me, senza doverlo dimostrare, senza doverlo dimostrare, senza doverlo dimostrare. Senza doverlo dimostrare a te. Eccoci, siamo tornati e potete bisbigliare un po' più forte, così vi sentiamo tutti. Stavamo capendo se si può parlare mentre si canta. C'è una canzone. Ah sì, no, stavamo parlando. E dicevo che tu ogni tanto metti. Camilla ti saluta Lieta Busacchi, che doveva essere qui con me stasera perché la portavo al Capanun e invece c'ha la febbre. Vedi mo. Che gente, che mondo. Del resto io mi sono spaccato un ginocchio la settimana di Arte Fiera e lei invece si è presa la febbre. Voi invece siete freschi come tre rose, come tre bijou. Menti da schifo, W, lo sai. Vabbè, è il mio mestiere. No, ma anch'io avrei confermato. Sembrate probabilmente perché non stiamo peggio. Quindi vi vediamo splendenti. Infatti. Capacità cognitive sono già andate, come avete visto, subito. Non ripetiamo tutto. Ed è solo il primo giorno dell'Art Week, capito? È solo il primo giorno, quindi. Cosa ci aspetta? Allora, cosa Sara. Intanto, Sara, cosa ci aspetta questa settimana? Per quel che riguarda CIP, che cosa ci aspetta questa settimana? Beh, direi che il primo traguardo è arrivare vive a giovedì 2 febbraio, quando inaugureremo lo spazio temporaneo. Del quale siamo entrate da un paio di settimane, stiamo finendo la fase dell'allestimento e delle installazioni. Il temporary si chiama Buio. È scritto, ecco, con una simpatica vittoria per come dire, dare anche il senso politico, storico e sociale del tipo di buio che avvertiamo. Non lavoriamo con i poster. Non lavorate con i poster? No, lavoriamo con tre ambienti installativi. Il primo è una sorta di dark room con un ambiente sonoro composto per noi da Francesco Papaleo, con una serie di suggestioni acquatiche, telluriche, frusci, insetti metallici. È l'ambiente sonoro in cui noi proiettiamo in un flow una serie di parole di frammenti diversi, di riflessioni scritte, che abbiamo affidato ad un gruppo molto nutrito di artiste e artiste internazionali della scena delle arti performative, visive e non, che hanno partecipato a buio proprio con questo tipo di riflessioni. Sono moltissime e moltissime. Andiamo da AIA, che è l'acronimo per Anonymous Iranian Artist, che è un collettivo di curatori, creative, artiste iraniani anonimi che giustamente sono anonimi per non rischiare la vita, magari. Sì, no? Anche perché avrete un'anteprima questa sera. Ok. In strada in questo momento, e verranno comunicati domani, ci sono dei poster che vengono da un artista iraniano. Ci avevi appena detto che non ci sarebbero stati poster. Esatto. Ma questi sono in strada, non sono dentro l'ambiente. In strada continuiamo ad affiggere, e quindi c'è questa serie di grandi manifesti in giro che stanno venendo applicati in questo momento, che riportano le proteste che ci sono in questo momento in Iran, e sono mix media, sono di forte impatto, parlano. Aspetta che cambio un attimo la musica di sottofondo, perché questa musica hawaiana non sta molto bene con la rivoluzione iraniana, sì. Dici? Con quello che sta succedendo in Iran. E proprio per sulla scorta di questa collaborazione siamo entrati in contatto con questo gruppo di artisti che parteciperà con uno statement. Insieme a loro ci sono i Motus, Muna Mossi, Fabio Lanaldi, Georgina P, Ivana Spinelli, Cristina Maria Faifa, Coco Guzman, potrei andare avanti, Wissa Lubabi. Insomma, è veramente una collettiva molto molto ampia. E queste alcuni lavoreranno dentro questo spazio, alcuni lavoreranno invece per strada, dico bene? E siamo riusciti a disperdere parte della proiezione anche in outdoor, arrivando ad occupare frazioni dell'architettura dello spazio pubblico di Bologna. Ci sarà uno spot in centro storico in area universitaria, uno in Bolognina e uno nelle adiacenze di Via del Pratello. Certo. Mentre ci sarà come spot fisso la vetrina di Santa Maria dei Carcerati, che è una piccola cappella all'interno di Palazzo Renzo. Wow. Ah, sì, certo. Mm-hmm. Esatto. E questo per quanto riguarda il progetto più legato ai testi e a queste suggestioni che abbiamo raccolto. Poi c'è una grande installazione nel secondo ambiente, fatta di corpi luminosi di 4,5 metri per 2. Nell'ultimo ambiente invece ci sono una serie di light box, ed è lo spazio che è anche dedicato al programma live, che è abbastanza ricco anche quello, vedo. È un bel programma, nel senso che non mancherà mai la musica là dentro, nel senso che apriamo giovedì per l'opening con una cosa particolarmente, con un set particolarmente piacevole. C'è con noi Noi Radio, che è partner storica di Chip, i nostri acerrimi nemici. Certo. E con Noi Radio arriva anche Simona Faraona. Il giorno dopo ospitiamo il performing act di Jacopo Benassi insieme a Lady Maru, Brutal Casual, e a grande. Seguire c'è una delle DJ bolognese a cui sono particolarmente legata anche da amicizia, che è Sofa Queen, quindi ci sarà un sofisticatissimo set di black music dal funk al house. Sabato abbiamo invece una Dirty Dark Disco di Papaleo, che è il compositore che ha realizzato per noi anche l'ambiente sonoro di Buio. Domenica è un po' più intensa, perché alle 16:30 abbiamo un talk in cui parliamo di pratiche artistiche e conflitti nello spazio pubblico. Lo facciamo insieme al collettivo Chincalieri, che temo abbia qualcosina da dire in questo momento sui conflitti nello spazio pubblico, soprattutto nella nostra città, e insieme a Fabiola Naldi e insieme a Silvia Fanti per Xing. Grande. Dopo questo momento di tensione ci sarà un set di Lomo in vinile e chiudiamo con una performance live di Riff, del progetto musicale che sarà già a Bologna anche insieme ai Motus, perché il 2, il 3 e il 4 di febbraio all'Arena del Sole va in scena Tutto Brucia. Wow, che programma, che programmone veramente. Sì, no, in effetti non vedo l'ora che sia giovedì 2 febbraio, giusto? Giusto. Questa settimana è un po' impegnativa, non lo so cosa vogliamo fare. Vogliamo raccontare anche solo un po' di inaugurazioni che ci sono questa settimana. Vuoi fare un angolino? L'angolo della menzione. Perché già stasera, cioè anziché essere in casa ad ascoltare Coxo Spaziale, voi dovreste già stare al Capannaun di Via Email de Lambertini a San Lazzaro, dove c'è Gerald Miller che inaugura appunto una personale. Poi abbiamo domattina alle 11 invece dovete andare all'Assemblea dell'Emilia Romagna, che inaugura Giovanni Ciangottini, curato da Sandro Malossini, mentre invece domani sera alle 18, forse la smetto di fare sti stacchi, cosa dici? Domani sera alle 18 c'è l'inaugurazione di una mostra spettacolare che è Bettina Book Finding Form a Palazzo De Toschi, curata da Davide Ferri, e l'ho vista stamattina ed è veramente una mostra da non mancare. Poi invece sempre domani, sempre alle 18, vi tocca, mi tocca di fare una marchetta per me stesso e dovete venire nel mio studio in via Nosaddella 37D, dove inaugura Arianna Scubla, che abbiamo ascoltato per raccontarci che cos'è questo Da Banzai, che è la mostra che inaugura. Lei sta a Berlino anche lei, fra l'altro, per cui non sarà l'inaugurazione. Però quando era qua a Bologna ad aiutarmi con l'allestimento, le ho chiesto che cos'era questa mostra e così lei ci dice. Arianna Scubla, hai deciso di chiamare questa tua prima personale a Bologna Da Banzai, che è una parola cinese. Che cosa significa? Allora, ho scelto questo titolo non perché, diciamo, si connette a un significato profondo, ma perché Da Banzai è un piatto tipico cinese molto ricco e variegato, cioè comprende diverse pietanze, e diciamo che come ho concepito il contenitore di queste pietanze, ho concepito lo stesso spazio in cui sono racchiusi i miei lavori, quindi sono lavori di, diciamo, abbastanza piccoli, di piccole e medie dimensioni, molto differenti fra loro, che affrontano tematiche tutte appartenenti comunque al mio lavoro, ma appunto non fanno parte di un unico filone. Questa mostra anticipa un'altra mostra che farai a Bologna, vero? Sì, quella ad adiacenze, che si terrà a maggio, sì, diciamo è un piccolo anticipo. E dunque vedremo un sacco di Arianna Scubla a Bologna prossimamente. Beh, lo spero, sì. Ti ringrazio. A te, ciao Stefano. Ciao. Poi cosa abbiamo? Mercoledì invece abbiamo il Mambo che inaugura con Yurian Karani. La mostra si intitola Atlantide e questo inaugura alle 18. Giovedì 2 febbraio dalle 10 cosa succede, Mia? Jonas Mekas, Under the Shadow of the Tree, Padiglione Esprit Nouveau, e dalle 10 di mattina, sempre giovedì 2 febbraio dalle 10, Dominique White, Fugitive of the Stateless, a Bagni di Mario. Ai Bagni di Mario, che è un posto spettacolare, anche questo non inaugura, però bisogna andarci. Sempre giovedì dalle 12 invece Natalie forse tu sai come si pronuncia, Djurberg. Putting Down the Prey al Cassero LGBT Plus Center, e questo anche qui dalle 12 di giovedì 2 febbraio. mentre invece dalle 18 alle 23 abbiamo appunto Buio, che inaugura con Chip al Temporary Space. Al, dacci l'indirizzo, visto che lo sai a memoria. L'ingresso è da Vicolo Bolognetti numero 18, siamo al piano terra di Palazzo Sassoli. Wow. Poi sempre giovedì, non contenti, dalle 19 alle 23, Lucy and Jorge Horta, Seeking Blue Gold, e questo invece, devo andare a memoria, è all'oratorio di San Filippo Neri. Poi venerdì, il 3 febbraio alle 18, inaugura Diacenze con Pedro di Carolina Cappelli, che è tutto un progetto di cui abbiamo anche vagamente parlato in qualche puntata di Coxo Spaziale, anche questo da non mancare, perché è solo in questo weekend ad Diacenze in Vicolo Spirito Santo. Sempre venerdì 18:30, Agnes Scherer, The Teacher. Questo è un gran casino, perché è dalle 18:30 ed è alla Sala Studio Teatro di Vita in Via del Pratello 90. Ho incontrato Caterina Molteni prima, che è la curatrice del progetto, e mi ha detto: venite un po' prima, perché altrimenti, perché è solo, il posto è piccolo e non c'è tanto spazio, e quando è pieno non vi lasciano più entrare, ed è in Via del Pratello 90. Dopodiché, sempre venerdì, abbiamo dalle 18 alle 24, non potevo non rimenzionarlo, Jacopo Benassi e Lady Maru con Brutal Casual Performing Act, sempre da Buio, sempre ingresso Vicolo Bolognetti numero 18, abbiamo detto? Sì. Poi cosa succede? Non contenti, tutte le mattine dal 1 febbraio al 5 febbraio alle 10:30 abbiamo i talk ad Ababò, per cui all'Accademia di Belle Arti di Bologna, in Aula Magna, che è un posto meraviglioso, e cominciamo il 1 febbraio alle 10:30 con Eva Marisaldi, che dialoga con Leonardo Regano e Carmen Lorenzetti, naturalmente della mostra di cui abbiamo parlato oggi. E Leonardo ci darà uno spoiler di quello che succederà alla Babò. Ah beh, io mi alzo e farò delle domande scomodissime, va bene? Non vedo l'ora. No, la cosa molto bella di questi talk, che ci sono stati anche negli altri anni, è proprio il fatto che gli studenti sono messi di fronte agli artisti che stanno facendo cose super importanti durante Art City, e possono appunto alzare la mano e chiedergli le cose più impensabili, cosa che ogni tanto fanno, e devo dire anche molto divertente. Poi il 2 febbraio alle 10:30 abbiamo Lucy and Jorge Horta, che dialogano con Cristina Francucci, Tatiana Basso e Maria Rita Bentini. Il 3 febbraio alle 10:30 abbiamo Tommaso Pasquali, che dialoga con Ian Massi e Luca Caccioni sull'opera di Patrick Proctor. Il 4 febbraio alle 10:30 abbiamo Yuri Ancarani, che dialoga con Lorenzo Balbi e con Marinella Paderni. Il 5 febbraio, domenica mattina alle 10:30, non si può mancare Roberto Fassoni, che dialoga con Federico Bomba di Sineglossa e con Guido Molinari. E così abbiamo finito tutto quello che dovevamo dire. Cioè, in realtà ci sono un miliardo di altre cose durante la Tefiera. Leonardo, ci sono cose che non dobbiamo mancare, a parte la mostra alla G7, che comunque sta su per un po', per cui possiamo permetterci di andarci magari la settimana dopo. Mi sembra che il programma anche delle gallerie sia molto interessante, anche quello che c'è certo. Molto storico, tra l'altro. Sì. Sabato con noi, per esempio, ha inaugurato, abbiamo già citato Alchemilla, in realtà abbiamo citato Alchemilla, Alchemilla, sì. E c'è anche Labs Gallery, che con Greta Schold ha fatto un ottimo, certo, lavoro. Ho avuto qua come si dice? Alessandro Luppi? No, ho avuto Silvia Evangelisti. Ah, eravamo solo io e lei, abbiamo parlato di Greta Schödel e di Mondino tutta la sera. Esatto, è vero, poi Mondino, c'è Mondino. Anche Mondino. Insomma, il programma è molto ricco, dimenticare qualcuno è molto facile. Sì, è molto facile, anzi, in effetti chiedo già scusa per tutti quelli che ho dimenticato. Li recupereremo un pochino. Sara, tu hai qualche altro posto in cui andrai sicuramente in questa settimana? No, in questa settimana no. No, ma tornerò verso la fine di febbraio per fare con più calma un giro anche se c'è Fabio Lanaldi che ti sta pressando, mi sta portando di peso a vedere le cose che devo vedere, okay. Ogni tanto viene a prendermi allo spazio e mi trascina per inaugurazioni. Capisco. Come ha fatto anche sabato infatti c'eravamo visti. Come ti passa la performance? È stata invece una sorpresa, perché era una solo performance che richiamava evidentemente la culture club certo. Però non quella di adesso, andiamo un po' indietro, per cui tutti questi gesti, questa fisicità, no, estraniata dalla massa dei corpi e riportata al corpo individuale, singolo, da solo, è stato straniante, anche perché io ero sotto cassa con Claudio Musso, mm-hmm, e non riuscivamo mica a stare fermi. Quindi c'era anche questa cosa, no? Che vedere una persona che balla con della bellissima musica in cassa e rimanere lì a fare la voyeuse tra il pubblico era una cosa che mi riusciva veramente molto difficile, per cui stavamo ballando. Stiamo parlando della performance Bastard, senza le vocali, di Caterina Andreu, che verrà riprodotta fra l'altro sabato prossimo dalle 19 alle 24, viene riprodotta al nuovo parcheggio stazione Roof, quinto piano, in video, sì. Perché per chi non era a Bologna la settimana, sabato scorso, però devo dire che secondo me in video funzionerà poco, e lo vedo perché ho fatto un piccolo videino e l'ho postato su Instagram, e due o tre persone che ammiro fra l'altro hanno detto ma cos'è sta roba, e in effetti una performance di quel tipo è da vedere dal vivo. Alle volte funziona, alle volte no, insomma. Stamattina fra l'altro stavo proprio leggendo sul fatto che il mondo virtuale in realtà non può essere più chiamato mondo virtuale, perché per alcune parti è il nostro mondo reale, cioè, no, certo. Cioè, però a 10 minuti dalla fine della trasmissione non credo che sia il caso di aprire non è la sede giusta, anche se in realtà un po' in imbarazzo anche Eva ha usato come l'intelligenza artificiale in questa assolutamente mostra, assolutamente sì, e non solo in questa mostra, no, infatti lei la usa da un sacco di tempo, ma siccome anni, adesso è di moda, infatti ho sentito un po' di imbarazzo nella sua voce in questo, esatto. Perché in effetti è una cosa interessantissima che però adesso sta già stracciando i maroni, detto tra noi, nel senso che c'era anche un primo tentativo di denuncia da parte di alcuni artisti nei confronti di questi programmi di intelligenza artificiale, proprio perché utilizzando questo mix di immagini utilizzano spesso anche lavori di altri artisti, sì, alle volte anche rubando poi effettivamente il lavoro di artisti, insomma, perché poi no, infatti è interessante questa cosa, perché c'è chi è lì che dice ah sì, con l'intelligenza artificiale non ci sarà più bisogno degli esseri umani, però senza gli esseri umani l'intelligenza artificiale che cosa copia, di cosa si nutre, esatto. Per cui sì, no, c'è tutto un bel discorsone da fare, però sì, immagino che le leggi sul copyright si divertiranno un po' anche su questo, perché poi erano già vaghe quando la gente comune copiava dagli altri, adesso se sono dei robot a copiare da Google diventa ancora più complicata la faccenda. Chissà se creeranno una specie di virtual tour di Art City, sarebbe fighissimo. Mm-hmm. Con tutte le varie riprese, tutti gli anfratti, poter vedere 170 opening in un'ora, sì. Poi per quattro. Ti consentirebbe di fare 170 opening in un'ora senza incontrare tutte le persone che non vuoi vedere. esatto. Sarebbe veramente la sfida per Art City 2024. Il problema è che poi hai bisogno di 6 mesi di tempo davanti a uno schermo per poter vedere tutto quello che hai mancato dal vivo, perché in effetti questo dono dell'ubiquità che le nuove tecnologie ci stanno dando, in realtà poi ci tolgono un sacco di tempo a noi stessi. Sì, infatti io suggerisco anche di andare senza registrare niente, cioè farsi un gran giro. Questo è un monito per me, foto. Che da quando avevo 15 anni ho registratore, macchina fotografica in mano, in tasca, eccetera. Io non ce la faccio, non so come fate voi a non registrare tutto quello che succede. Io ho questa mania qua. Chi lo sa. Vado da uno psicologo, cosa le dite? Dai, un po' tutti noi ci stiamo andando. Scusate, però. Alla fine ci passiamo tutti. Chi più o chi meno. Dunque, vi faccio un'ultima domanda, che è quella: avete qualcosa da aggiungere a questa puntata pienissima di cose di cui vi ringrazio e che ci avete raccontato, e soprattutto pienissima di stimoli di andare a vedere cose? Cioè, io sicuramente vi invito a non mancare la mostra di Eva, naturalmente, che è anche solo per, cioè, se anche vi fa schifo l'arte concettuale, solo per andare a vedere il laboratorio degli angeli merita assolutamente. Devo dire che io mi sono innamorato dei sassi ricoperti di stoffa, quelli sono di una bellezza notevole. Tu prima, Stefano, dicevi un motivo per venire a vedere la mostra. Io adesso ti rispondo alla fine della puntata dicendo che, dal mio punto di vista, uno dei motivi è quello della curiosità. Perché davanti al lavoro di Eva uno si deve porre delle domande. Certo. E se uno vuole porsi delle domande, uno dei momenti più belli è proprio quello di vedere il suo lavoro e di lasciarsi un po' anche così catturare dalla sua visione, dalle sue connessioni, dal perché ha scelto di fare quello che stiamo vedendo. Certo. Certo. E in un ultimo, lei non dico che caldeggi, ma senz'altro può auspicare che ogni singolo fruitore abbia la sua interpretazione, che non necessariamente deve essere la sua, no? Wow. Possono coesistere, uno può chiedere dei chiarimenti, ma può avere una sua suggestione. Parlando di autorealità e di intelligenza artificiale, la mostra ha questo, secondo me, anche questa lettura. Ci sono cose restaurate, quindi toccate dalle nostre mani, cose originali di Eva, cose chieste all'intelligenza artificiale, riproduzioni, insomma, diciamo così che l'opera d'arte viene vista su diversi livelli, e potremmo ragionarne per moltissimo tempo, però ecco, gli autori sono diversi, anche di diversi tempi. Assolutamente sì, non che il restauratore sia un autore, però nel momento in cui mette le mani, certo, a volte, non in questo caso, però insomma, c'erano molti attori e autori, diciamo così, e lei li ha voluti rappresentare tutti. Bello, grande. E invece a Sara, a cui ti devo strappare una promessa, devi ritornare a Coxo Spaziale per raccontarci tutta la storia di Chip, che in realtà era il primo motivo per cui ti avevo invitato qui, ma poi appunto avete organizzato cose durante Art City eccetera eccetera, e alla fine non abbiamo avuto abbastanza tempo per raccontare i 10 anni di Chip. Compiamo 10 anni, è vero. È tutto vero. 10 anni di Chip. È una vertigine. Perché anche perché, voglio dire, siete, come ho detto prima, siete l'iconografia di Bologna. Cioè, Bologna viene associata ai poster che voi ogni anno mettete in città. Soprattutto per i poveri, devo dire, ovvero quelli che arrivano da Bologna col Flixbus e dunque si vedono tutto il muro dell'autostazione, che è una roba meravigliosa, devo dire, e appunto il loro benvenuto alle 2 di mattina, no, alle 3 del mattino, quando Melvi sveglia, quando accende l'autobus, accende le luci e dice: siamo arrivati all'autostazione di Bologna. Loro aprono gli occhi e vedono i muri dell'autostazione con questi poster fantastici, cioè, che sono sempre fantastici, fra l'altro, per cui devo farvi i miei complimenti per tutto quello che avete fatto per la città negli ultimi 10 anni. Io ti ringrazio, ti posso confessare a mezzo radiofonico, proprio nell'intimità, che questa cosa mi mette una leggera pressione. Scusa, che siamo rappresentiamo il, non volevo darti questa no, pressione, però noi sotto pressione lavoriamo bene, ok, per cui no, infatti ce la portiamo via abbastanza bene. Sono convintissimo che non sarà un grosso problema lavorare sotto pressione. Io vi ringrazio di nuovo, Camilla Robert Simone del Laboratorio degli Angeli, Leonardo Regano di curatore indipendente, Independent Curator. Sara Manfredi di Cheap. Io ero sempre Mia da Schio su Piedi. E io ero Stefano W. Pasquini. E questo era Coxo Spaziale. Ci risentiamo naturalmente lunedì prossimo, dove tireremo le somme di tutto quello che è successo nella settimana di Art Week. Non spoileriamo, perché poi magari gli viene la febbre e non viene nessuno. E dunque vi salutiamo con le solite parole del nostro esimio direttore di radio, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla.